cioè la sera quando guardo la televisione, io c'ho una panchina di fronte il televisore e mi siedo. Qua fra me e lui non sono sicuramente io, al massimo sarà lui. Se uno che è squalificato per omessa denuncia viene a parlare di moralità a me, significa che è finito il mondo. Ibrahimovic non lo sento, io non l'ho più chiamato, l'ho chiamato qualche volta e non mi ha risposto, sento tutti gli altri ma non Ibra. Tutti convocati di Carlo Genta. Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. Conte oggi ha detto: mi sento speciale, e io sono speciale, la società è speciale, anche lei questa sera si sente un po' speciale, visto che è una frase insomma piuttosto gettonata in casa nerazzurra che evoca qualche allenatore del passato. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Ecco, il normalone, detta insomma. Il normalone sembra alla romana. No, sembro sovrappeso più che altro. No, alla romana, la volevo dire un po' alla romana. Più, sì, insomma, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Ciao a tutti! Ho detto, pensare che mi potevate mancare, onestamente, invece mi siete mancati. Troppo buono Antonio Conte, Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, il Napoli come al solito sbaglia strada all'incrocio, mentre riprende quella giusta l'Inter, che ripiglia in mano il testimone virtuale di anti-Juventus, se ne esiste davvero una, dato che la signora viaggia verso il titolo d'inverno, allungando a più 4 su chi insegue da vicino. Tutti convocati, naturalmente anche oggi, 800 24 00 24. Vorremmo anche sapere se c'è qualche malato, quantomeno di calcio, che ieri si è sintonizzato sulla Conte Cam. Tra tutti questi speciali e normali, un allenatore, nostro amico, che ci tiene da morire ad essere un uomo normale, ma è stato capace di imprese anche speciali. Emiliano Mondonico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Quanti speciali ci sono in giro? In questo momento sto curando le galline fuori dal mio pollaio, che stanno andando da tutte le parti, perché è nevicato, stanno cercando l'erba, mi stanno facendo impazzire. Poi ci ha aperto anche la caccia e ho paura che qualche gallina venga scambiato per qualche fagiano, perciò fate voi in che situazione e venga impallinata. Trovati i funghi, i chiodini? I funghi li abbiamo trovati, è uscito solo una gettata, perché dopo hai cominciato a far freddo e i porcini si sono nascosti. Senta, tra tutti questi speciali, normale è il campionato? La squadra più forte è in testa, le altre provano a inventarsi qualcosa. Oggi ho letto anche il titolo sul suo articolo di Fabio Monti: l'Inter vince alla provinciale, e ripartiamo da lì. attenzione con questa provincia. No, penso che sia il campione italiano. In questo momento la Juve ha 4 punti, penso, di vantaggio, perciò non è che sia così lontana. Sicuramente sulla carta è la squadra più forte. Personalmente sono convinto che se prendono il top player davanti fanno ancora meno gol, e perciò è bene che rimangano così e mandare in porta tutti i centrocampisti che arrivano da dietro. L'Inter vince chiaramente come le gare che deve vincere, il Napoli purtroppo nelle gare importanti non riesce a fare la differenza, e aspettando Milan e l'Aste, la stessa Fiorentina che sembra o sembrava dovessero arrivare, ecco che questo campionato diventa come sempre affascinante, perché a tutt'oggi non si sa chi vince, ma soprattutto non si sa chi retrocede. Sì, anche se mi sembrano ben allineate al momento politico ed economico Napoli, cioè Genoa e Palermo, tristezza assoluta. No, ma ci sono squadre lì dietro, ce ne sono una decina che si stanno impelagando in questa lotta per non retrocedere, che penso sia ancora più importante che vincere lo scudetto, perché da, da quanto si sussurra retrocedere è un po' un disastro ambientale, sì. E perciò penso che sicuramente saranno molto più preoccupati quelli che lottano per non retrocedere che quelli che non vinceranno il campionato. Senta Mondo, le chiedo ancora questo prima di lasciare alle galline, che sennò vanno da tutte le parti, è un disastro. Adesso sto curando i tacchini. Ah, adesso i tacchini. E c'è una faraona che se n'è andata, adesso devo andare a cercarla. Bisogna recuperarla per Natale. No, poverina, qui muoiono tutti di vecchiaia, qui non li mangiamo perché sono troppo affezionati, perché gli animali, se gli dai da mangiare, sai che festa che ti fanno? Sì. E gli uomini, che se anche gli dai da mangiare... Ti portano via la mano. Invece gli animali, mamma mia, quando arrivo, tutti in festa che arriva la vista da mangiare. Ditemi. Senta, l'ultima cosa, il Milan è il doping di Berlusconi. No, sì, dai, sarebbe un po' una soluzione nuova, quella che arriva il precedente e parla alla squadra e la squadra vince. Sarebbe un guaio per noi allenatori che fino a ieri pensavamo di essere noi quelli che fanno vincere o perdere le squadre. Se invece è proprio il consulto col presidente, diciamo che la nostra categoria, già abbastanza presa in mezzo, sarà ancora di più dimenticata. Sì, intanto la Juventus con Conte non è che ha perso poi tutte ste, senza Conte non è che ha perso tutte ste partite. Ma ti dirò che dall'alto si vede molto meglio che non da bordo campo. Però ieri Conte, dopo il gol di Listeiner, ha fatto vedere a tutti cosa vuol dire avere un allenatore in panchina. Sì. Mentre di solito fai gol, ti abbracci, festeggi e fai tutte quelle menate, lui gol di Listeiner, chiama Pirlo 1, 2, 3, 5 volte e gli dice: amico, mettiti davanti alla difesa e gioca lì. Sì. Pregandosene di chi festeggiava il gol. Questo vuol dire avere un allenatore in panchina, che è sicuramente un valore aggiunto. Grazie Mondo! Grazie a voi e buon divertimento. E buon lavoro. Grazie. Eccolo al gallo. Bravissimi. Grazie Emiliano Mondonico. Grazie a voi. 800240024, numero verde, perché siete tutti convocati come sempre per parlare di sport, non solo di questa giornata di campionato che, come dicevo, non è che ci abbia lasciato, insomma, grandissime sorprese. Siamo partiti con i fuochi d'artificio romani l'altra sera e poi ieri siamo passati attraverso il Milan, il doping di Berlusconi e questa terza vittoria consecutiva. Ha perso De Jong fino alla fine del campionato, poveretto, non mi sembra una perdita... No, si è fatto male sul serio, in bocca al lupo a lui e che recuperi al più presto, però non mi sembra una perdita trascendentale. Caccia palloni con i piedi un po' di cemento. E poi voglio, cioè, l'argomento del giorno, secondo me, quando l'ho saputo, l'ho visto, mi ha lasciato basito. Io voglio parlare con qualcuno che abbia avuto il coraggio ieri di sintonizzarsi su Sky sulla Conte Cam, cioè la telecamera che ha seguito dall'ingresso della partita fino alla fine Antonio Conte. Questo mi sembra veramente il massimo del trash. Messaggi 349-238-6666, ma siete convocati con la vostra voce. 800240024, qui dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Poi facciamo la conta. 800240024. C'è Simone su Twitter. A proposito, allacciatevi a Twitter anche lì per essere sempre più interattivi. C'è chi mi domanda: Simone, oggi sarai milanista, juventino, interista, napoletano, ne aggiungo delle altre, genoano, povero Genoa, bolognese, col Bologna che gioca stasera, ma quello che voi sono come voi volete o niente di tutto questo, cosa che preferisco. Matteo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, salve. Le faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Guardi, io semplicemente volevo fare un appunto sulla partita di ieri sera. Le prometto che sono interista. La sento male, ma da dove parla? Da una grotta? Non ho capito. La sento male, da dove sta parlando? Da una grotta? No, guardi, sono con la voce, lo tolgo tutto. Allora c'era il trucco. Mi sente meglio ora? Direi di sì. Perfetto, guardi, io semplicemente volevo dire, perché ho letto il Corriere dello Sport che titolava secondo me una prima pagina un po' azzardata, secondo la quale il Napoli strameritava di vincere la partita di ieri sera. Secondo me il secondo tempo indubbiamente è stato giocato meglio dal Napoli, con più incisività, però bisogna anche ricordarsi degli episodi che erano tutti secondo me a favore dell'Inter, parlando dal rigore nettissimo non concesso su Cassano, per non parlare dell'espulsione di Berami. L'espulsione di Berami, sì, rigore nettissimo su Cassano non mi sembrava così netto. Diciamo che il Napoli ha dovuto, dopo aver beccato il gol subito, ha dovuto correre in salita, quindi per forza ha dovuto inventarsi una partita diversa da quella che probabilmente aveva in testa. Insomma, è stata una bella partita, mi pare che l'Inter nulla abbia rubato, il Napoli, ripeto, come al solito, un po' ha sbagliato strada all'incrocio, no? Perché anche ieri si trattava di decidere quale strada prendere, se quella verso la Juventus oppure no. La strada verso la Juventus l'ha presa l'Inter, facendo anche contenta la Juventus, che adesso si trova non più a più 3 ma a più 4 sui più diretti inseguitori. Comunque Napoli è indubbio che abbia fatto una buona gara. Allora, prima di Umberto, provincia di Salerno, e Giulio da Milano, 800 24 00 24, abbiamo le dichiarazioni più belle del weekend, più belle della domenica. Solo terzo Conte, eh? Ah no, non è, cioè, no, aspetta, partiamo dal terzo gradino del podio. È inevitabile che se avessimo pareggiato questa partita in un calcio d'angolo al 90esimo, penso che saremmo rimasti 2 giorni chiusi nello spogliatoio tutti quanti, avremmo fatto ritiro qui a Palermo. Questa già non è male. Al secondo posto, Stramaccioni. Ci racconta dello schema da cui arriva il gol dell'1-0. Ieri, parlando di Roma-Fiorentina, abbiamo ricordato come la Fiorentina abbia un tattico dei calci da fermo, no? Che Gianni Vio. Non so se l'avete anche voi, Beppe Bergomi ci raccontava che quello schema l'avete già provato in qualche partita precedente, giusto? Me li faccio da solo io. Ci pensa lei direttamente. Risparmiamo sul tattico. Ma sì, risparmiamo anche sul tattico. Intanto ci sarebbe da spendere 2 soldini per un attaccante. Se l'Inter vuole davvero competere seriamente per lo scudetto, e già che ci siamo, magari anche per un centrocampista, perché la fatica comincerà a farsi sentire anche sulle gambe di vari cambiali, su Zanetti eccetera, perché il centrocampo fa un grande lavoro di copertura della difesa e di protezione dei tre davanti, ma soprattutto serve un attaccante, serve un vice Milito, mi pare che Moratti l'abbia detto anche oggi. Però, primo gradino del podio, e poi ascoltatori, 800 24 00 24, e torna di nuovo Antonio Conte. È agghiacciante quello che dicono, è agghiacciante questa giustizia sportiva, è assurdo quello che è capitato, vergogna. È assurdo tutto quello che mi è successo. Sono antipatico perché vinco? Non è un problema mio. Do fastidio? Non è un problema mio. Sono antipatico perché vinco? Per quello che riguarda Crozza, penso che minimo una cena me la debba offrire l'avanza, sì. Perché è accresciuta la popolarità sua. Sua moglie imita Crozza, è vero? Sì, sì, la prima, infatti, è la cosa che mi fa arrabbiare di più, è sentire mia moglie che imita Crozza. Ma sei il più imitato di... Umberto, che mi dice? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, salve. Ma se l'immagina la moglie di Conte che imita Crozza? Infatti. Che imita Conte, che imita suo marito? No, per l'amor di Dio. Non mi dica che ieri ha guardato la Conte Cam. No, perché io, sennò... dopo aver visto la partita del Napoli ieri, sì, sono orgogliosissimo di essere un tifoso del Napoli. Ma ci mancherebbe perché... altro. Ma no. Ma non serviva la partita di ieri per essere orgoglioso. Ma pensando che 3 anni fa si andava su questi campi dove si temeva l'Inter, o il Milan, o la Juve, ora andiamo a dettare legge. Quindi noi dobbiamo puntare su questa strada e mirare anche al terzo posto quest'anno, che andrebbe anche bene. Pensate che abbiamo gli 11 undicesimi, non è chissà che abbiamo una grande panchina. E se poi in un confronto quindi, diretto si fanno con queste due, si fa anche qualche punto, non è male. Ah sì, sicuramente. E poi c'è di mezzo che dopo due minuti un gol a freddo e poi abbiamo dettato legge, quindi non ci sono parole. Insomma, il Napoli, ripeto quanto detto prima, anzi no, è inutile che lo ripeto, l'ho detto un minuto fa, è chiaro che il Napoli ha giocato una partita diversa probabilmente da quella che aveva in testa, perché si è messo in quel modo. No, ma un approccio dell'anno scorso proprio incredibile, cioè... Non c'è stato, però i tre punti li ha presi l'Inter. La Juve è la Juve. Noi abbiamo 11 undicesimi e stiamo girando da tre anni sempre con questi. Il problema è un po' quello lì. Il problema è un po' quello. Il problema è un po' quello che il Napoli non ha, secondo me, la profondità e nella profondità la qualità per essere competitivo per lo scudetto. Poi sta facendo i miracoli, anche perché mi pare che, insomma, basta leggere la linea difensiva, la composizione della panchina e poi miracoli altro che, insomma. Giulio, Milano, buongiorno. Buongiorno. Che mi dici? Io vorrei proprio intervenire per la partita di Internazionale. Prometto che sono un interista da oltre 30 anni, seguo l'Inter, sono innamorato. Ieri sera io seguo l'Inter, ma non mi è parsa quella squadra, tra virgolette, che è cantata. Se devo essere sincero, mi è piaciuto di più il Napoli. Se il Napoli avesse una difesa, diciamo, con dei giocatori, con delle caratteristiche per il blasone che può avere lo stesso Napoli, secondo me è la squadra più forte italiana, perché ha di quelle ripartenze dal centrocampo. Gioca molto bene. Sono d'accordo con me? Sì, giocano molto bene. La squadra più forte, la squadra italiana più forte, secondo me, rimane comunque quella che c'è in testa alla classifica. Ripeto, la partita del Napoli ieri è stata splendida, però il Napoli va a Torino a giocarsi comunque una partita importante per gli equilibri contro la Juventus e perde. Ieri va a Milano a giocarsi un'altra partita crocevia di questa prima parte della stagione, gioca benissimo, quel che volete, ma riperde. E, insomma, per essere grandi bisogna anche portare a casa punti da queste gare. Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo un altro Conte, ma io voglio sapere se veramente c'è qualcuno che l'ha visto, che si è visto la partita di Conte in TV. Perché lo faccio rinchiudere. Sentiamo ancora un Conte, dai. La panchina sua moglie l'ha già buttata da casa sua? Ma si è seduta lei oggi con mia figlia e poi anche col gatto, visto che è arrivato anche in famiglia un gatto. Quindi si sono seduti loro. Però adesso che torna a casa glielo ho detto che io quella panchina la voglio vedere più. E quindi via la panchina da casa Conte, arriva il gatto Fabio Salerno. Ciao, buonasera. Ciao, dimmi Ciao, tutto. Scusami, io non ho visto Conte perché io sono una mosca bianca, insomma, io tifo per la squadra della mia città che è la Salernitana e quindi guardo la C2, insomma, sì. Guardo il calcio di C2 che è un calcio ben diverso, quindi non mi voglio annoiare perché immagino che interessa, immagino, a tre persone il calcio di C, però ti devo fare una domanda, perché il presidente della mia squadra, la Salernitana, è Claudio Lotito. Io non ho capito una cosa, se mi puoi chiarire questa domanda tecnica: un presidente che ha la Lazio in Serie A e la Salernitana in Serie C blocca tutte le nostre comunque ambizioni, perché la Salernitana è stata in Serie A, ha fatto 10 anni di B. Può esserci una Salernitana e una Lazio nella stessa serie per legge? Non so se la legge sportiva lo prevede o no, non lo prevede. Non penso proprio che sia possibile, però una sinergia. Sono sempre destinati a un'altra categoria. Questa è la mia domanda. Non capisco no, se ma una stessa società no, e la stessa serie. Con la stessa proprietà, no, di sicuro, però una sinergia comunque tra un club come la Lazio e una squadra che fa un campionato minore può portare benefici senz'altro anche alla Salernitana. Insomma, abbiamo avuto tanti esempi in Spagna, la squadra A e la squadra B, lì c'è un'impostazione un po' diversa. però sappiamo come, insomma, esperimenti di questo tipo possono portare beneficio ad entrambi. Lo ha provato anche Pozzo con un club spagnolo. Dunque, insomma, non starei. Piuttosto, il problema vero è che ci sono davvero troppe squadre nei campionati sotto la Serie B. In Italia abbiamo il maggior numero di parlamentari e il maggior numero di squadre di calcio professionistiche, quasi tutte con il sedere a mollo. Luigi da Pisa. Sì, salve, volevo parlare del mio Napoli. Sì. Che giustamente ha perso nelle due scontri diretti, però tutte e due giocate in trasferta, e quindi speriamo che al ritorno ci rifacciamo. Però quello che vorrei dire io alla mia società è questo: secondo me il Napoli dovrebbe avere un organico meno rumoroso, ma aumentare la qualità. Secondo me ci vogliono almeno 18 giocatori che possono essere interscambiati in qualsiasi momento, se no la squadra non arriverà mai ai vertici della classifica. Sì. Sono abbastanza d'accordo con lei, cioè non, è quello che abbiamo detto. Non so se un minor numero di giocatori, certamente più qualità nella panchina e più profondità nella squadra, perché Napoli è legato all'andamento delle sue stelle, e questo lo sappiamo. È una squadra che comunque gioca molto bene, però è onestamente poco profondo per puntare al titolo. Luigi da Pisa. No. Appena parlato Luigi da Pisa, e allora vi leggo un paio di tweet e poi andiamo alla borsa. Ma non vi scrive Filippo, ma non vi ricordate che la Rigocam la inventò Tele Monte Carlo ai tempi del mondiale americano del 94? Non me lo ricordavo, o se me lo ricordavo l'ho rimosso in fretta. Alejandro, una boiata definisce la Conte Cam, vergognosa. Gianni, agghiacciante. Massimo, vabbè, ma basta non guardarla, cioè basta non usare quel tasto del telecomando. Ci fermiamo, dopo la borsa torniamo insieme. 800 24 00 24 e vi aspetto qui. Tutti convocati. Questi sono i pulcini di Mondonico? Pazzi che non siete altro. 800 24 00 24 per intervenire intanto in quella specie di cloaca che è diventato il canale degli SMS. 349 238 6666. Ogni tanto si legge anche qualcosa di divertente come questo: se scappa il gatto può mettere Bentner sulla panchina del soggiorno. Naturalmente il soggetto è Conte, lo scrive Max da Mestre. In effetti non riesco ad immaginare giocatore più inutile di Bentner alla Juventus, e mi pare che i fatti lo stiano dimostrando. Ma parliamo di gol, che Bentner segnerà poco in questa stagione, ho l'impressione. Il gol della settimana qual è? Qual è secondo voi il gol della settimana? Va bene, non vi faccio indovinare, vi faccio sentire. And the Oscar goes to... Adriano, perdona che viene Adriano, che contra se deja Messi. Ojo, si ve a Iniesta y lo va a ver. Va a entrar solo el manchego, ahí está Messi. Messi con Iniesta, Iniesta busca el pase. Atrás para el argentino, remata Messi, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Como tantos y tantos otros de la trayectoria estratosférica de un tal Lionel Andrés Messi, venido de quién sabe dónde para llegar, parece, hasta el infinito y más allá. 86 goles la criatura, registros de otra época, cifras de otro siglo, en unos años diremos orgullosos. Yo vi jugar al animal, yo vi jugar al marciano, yo vi jugar al extraterrestre, yo vi jugar al mejor, en definitiva, yo vi jugar a Lionel Messi. 25 primera parte, sigue la tiranía del más grande. Marco Lionel, marco el Barça, marco Messi, Betis 0, el Torpedo Müller y es historia, Barça 2. No, como muchas veces lo dije, ¿no? No te da nada conseguir recorrer, se ve muy lindo por lo que significa, pero más importante es la victoria que nos sigue manteniendo esa distancia con los demás equipos, y eso es lo que vamos a buscar cada cancha, ¿no? Ganar para seguir de esta manera. Tú sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tú sei molto, molto bravo. Tú hai un dono. No. Te lo digo io. Tú hai un dono. In questo caso verissimo, signori, chapeau, tutti in piedi, 86 gol e il record di Gerd Müller finisce qui, 86 gol in un anno per Lionel Messi. Telecronaca che, cioè radiocronaca che ci ha, insomma, ci ha un po' riconciliato dopo le notizie che sono arrivate dalla borsa, eravamo tutti depressi, gli abbiamo tirato un po' sul morale, almeno spero. Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta, ciao! Ciao a tutti. Come stai? Tutto bene. Ieri c'era la Conte Cam fissa su Antonio Conte, ma c'era anche la Guarin Cam con gli occhi e la penna di Andrea Schianchi. Oggi hai descritto la partita di questo giocatore che a me piace molto. Lo pensavo un po' troppo lento per il calcio italiano, ma invece è uno che ha... stiamo scoprendo a grandissime doti, e poi tra queste decide anche le partite che contano. Questo è un giocatore che ha soprattutto nel cambio di passo credo la qualità migliore, e quando riesce a cambiare passo soprattutto fra le linee avversarie, quindi in una posizione a metà tra la mezzala e il trequartista, come si dice in gergo, può fare davvero male. Come hai visto il complesso l'Inter? È stata una partita ovviamente orientata, Napoli ha giocato... dicevo prima, una partita diversa da quella che avevi in mente o che aveva preparato, probabilmente perché si è trovato colpito al cuore subito e quindi si è dovuto inventare una partita d'attacco. Ma come hai visto nel complesso l'Inter? Ma l'Inter nel complesso, insomma, mi sembra una squadra ancora non al livello di quando ha battuto la Juventus a Torino. Credo che ci siano degli evidenti cali fisici, e secondo me da qui a Natale dovrà cercare di stringere i denti per poi ricaricare le batterie nel periodo di sosta, almeno questo penso io, e magari ricaricare anche l'Arsenale, perché un paio di giocatori servono. Secondo me sì. Credo che se viene risistemata un pochino la squadra, allora può lottare davvero per essere l'anti-Juve. Così in questo momento la Juve è nettamente superiore. Sì. Il Napoli sinceramente mi ha un po' deluso, perché tu non puoi continuare a fare la partita, però non hai le qualità di gioco per poterti imporre. Quando vedo Hamsik, che dovrebbe fare il trequartista, arretrare a centrocampo perché non c'è nessun altro che inventa gioco, che crea la manovra, che detta i tempi, allora vuol dire che in quel settore secondo me c'è una mancanza. Sì, non solo in quel settore, perché anche la linea difensiva del Napoli non mi sembra sia esattamente una cosa da Champions League. No, non è una cosa da Champions League, secondo me non è una cosa neanche da primi posti italiani, dopodiché ci si arrangia, però è soprattutto in mezzo al campo dove il Napoli pativa l'anno scorso, patisce quest'anno, ma credo che sia un desiderio di Mazzarri, che evidentemente il classico regista non lo vuole, perché l'anno scorso in quel posto giocava Gargano, quindi non mi sembra un fine dicitore. E evidentemente il suo gioco prevede questo. Io credo che se tu giochi con due giocatori larghi come Maggio e Zuniga e due interni di centrocampo, sia necessario avere un regista che comunque dà la palla, perché sennò la palla non gli arriva, certo. E poi non far arrivare la palla a Cavani o a Insigne, comincia a diventare un pochino pericoloso. Un pochino pericoloso, dici? Un pochino autolesionista. Senti, oggi secondo me sì. Oggi tuo amico Ancelotti ha detto che niet De Rossi, niet Snyder, arriva solo Lucas, che peraltro è già stato preso, e basta così, c'è Snyder da sbolognare. Sì, così me l'aveva detto anche la settimana scorsa quando sono stato a fare un'intervista a Parigi a lui dopo Paris Saint-Germain Porto. Poi è chiaro che il mercato, io non ci metto mai la mano sul fuoco, perché nel mercato può succedere di tutto. Francamente credo che Paris Saint-Germain non abbia bisogno di Snyder, perché di trequartisti, insomma, credo che ne abbiano in abbondanza, anche perché Lucas è un'ala, quindi Casomai avrebbe bisogno di De Rossi. Credo che il problema del Paris Saint-Germain in questo momento sia soprattutto la costruzione del centrocampo. E se arrivasse uno come De Rossi sarebbe non solo il benvenuto, ma sarebbe utilissimo alla causa. Snyder, secondo me, obiettivamente un pochino meno. Sì, tanto De Rossi, non è che gliene mancano. De Rossi non si è integrato nella Roma. Sì, De Rossi non si è integrato nella Roma, a me fa ridere queste robe qua. Ma va? I giocatori di calcio si integrano ovunque. No, ma soprattutto quelli buoni. Esatto. Poi c'è bisogno che De Rossi si integri nella Roma. Ma va. Non scherziamo. Se Zeman vuole far giocare Taxidis e Bradley, va bene, faccio giocare Taxidis e Bradley, però non venga a dire che De Rossi non si è integrato nella Roma, perché gioca nella Roma da quando aveva 7 anni, quindi, sì. Insomma, cioè, francamente sono robe che mi fanno un pochino ridere. Poi ripeto, va bene tutto adesso a Roma perché hanno fatto 4 vittorie di fila, poi faranno 4 sconfitte di fila. Sarà il solito Zeman, è su e giù sull'altalena. Ma certo, ma sarà il solito Zeman. Ma meno male che qualcuno ci fa ridere. Sì, l'importante sarebbe non prenderli troppo sul serio. Ma non bisogna, è vietatissimo prenderli troppo sul perché serio. Perché davvero prenderli troppo sul serio diventa pericoloso. Infatti è quello che insomma, proviamo a fare ogni giorno, no? Mi sembra che sia la cosa fondamentale, anche perché non dobbiamo dimenticare che è un gioco e anche perché bisogna divertirsi. Senti Andrea, io sono un pelo preoccupato invece per il Milan. Ma no, preoccupato perché? Perché se si ributta in politica a Milanello non ci va più. Ma guarda che a Milanello ci andava perché ci va perché si ributta in politica. È per quello. Cioè, su questo non ci piove, lui si ributta in politica e va a Milanello esattamente come aveva fatto nel 1994, quando i primi comizi li fece a Milanello. Sì. Dopodiché il Milan credo sarà un anno di transizione, insomma, quello del Milan. Un giorno dice che vuol comprare Balotelli, poi qualcuno gli comunica che Balotelli costa 40 milioni e allora dice no, forse non lo posso comprare. Ma forse è meglio di no. Ma sì, ma è chiaro che sono tutti spot elettorali, voglio dire, ormai Montanelli diceva che è giusto provare Berlusconi perché così poi dopo si prova il vaccino, no? Ormai credo che i tifosi milanisti siano abbastanza vaccinati da capire e da sapere che non tutto quello che esce da quelle stanze è oro colato, insomma. Sì. Oggi Barbara infatti ha detto che i top player si fanno in casa e che la strada virtuosa intrapresa dal club rossonero è quella del fair play finanziario. Sì, io credo che loro vadano avanti in questo modo, anche perché non vedo sinceramente, adesso quando è sentata fuori questa voce di Balotelli in settimana, ci saranno pure state anche magari delle trattative, non lo so, perché non mi occupo di cose di mercato, ma francamente non credo che il Milan abbia bisogno di un attaccante, credo che il Milan abbia bisogno di sistemare soprattutto là dietro, perché, ma questo lo dico da 2 anni. Le grandi squadre nascono sempre da grandi difese, non ci sono santi che tengano. Quindi certo. Grandi questo difensori sono andati via per dollari o per usura, esatto, e quindi è ovvio che devono ripartire da lì. Esatto. Andrea, ti ringrazio. Che quest'anno nell'emergenza, perché comunque è una situazione di emergenza e ripeto un anno di transizione, il Milan secondo me ha trovato El Shaarawy e De Sciglio che sono buoni giocatori, sono ottimi giocatori in prospettiva anche, quindi insomma non voglio dire che sia coperto in quei ruoli per molto tempo, però ci va abbastanza vicino. De Sciglio può essere un ottimo giocatore, io mi auguro El Shaarawy anche qualcosina di più. Grazie Andrea. Grazie a te, ciao Carlo. Ciao, grazie ad Andrea Schianchi, strade poi ascoltatori 800 24 00 24, Nicola, Alessandro, Enrico e tutti quelli che verranno. Diciamo che per l'allenatore è convocabile, per il presidente è convocabile, quindi è pronto a giocare. Tutti convocati. Tutti convocati. Finitela di sfottere la Roma, milanesi inutili. Questo è uno dei tanti messaggi che escono dalla cloaca. Chi sfotte la Roma? Nessuno lo sta facendo. La Roma ha giocato l'altra sera una grande partita, si è visto, vabbè, ma no, non fa notizia Francesco Totti, fa un po' più notizia il fatto che il portiere fiorentino gli abbia dato una mano soprattutto sul gol in chiusura del primo tempo. La Roma è pazza e divertente, insomma, non secondo me il problema vero sarà quello della mancanza di continuità. Io non sfotto nessuno, però quando sento dire che De Rossi non si è integrato nella Roma, anche lei che scrive questa cosa, insomma, non può crederci. Io mi rifiuto di pensarlo e mi fa soltanto ridere. Nicola, Bologna, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho chiamato Sky per quello che era successo, sono un abbonato da vecchia data, e gli ho detto che un'altra personalizzazione di quello che hanno fatto con la Contecam avrebbe comportato la mia disdetta del contratto, perché credo che l'unico modo per far capire le cose è toccare il portafoglio, perché io l'ho guardato solo un minuto e sono rimasto indignato, questa personalizzazione del mezzo televisivo, e ho agito in questo modo. Beh, insomma, basta non guardarlo. Sì, infatti ho detto un minuto, però un minuto per curiosità ci sta. Sì, ma è la personalizzazione che non mi va giù. Quando una cosa diventa personalizzante si rischia di idolatrare le cose, questo ma al di là di quello è una pazzia, ma immaginatevi chi può essere interessato. Io vorrei la telecamera personale su Messi, allora magari quella me la guardo una volta per capire, poi il calcio è un gioco di squadra. Però su Messi magari ci perdo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, magari anche 90 minuti. Ma su Conte, per favore. Alessandro, Luca. Sì, buonasera, gente. Sì, mi riallaccio alla sua ultima frase. Cioè, onestamente io penso che l'unto del Signore sia diventato Conte. È 120 giorni che si parla di questo allenatore come se fosse il Messia. Si parla... Cioè, onestamente, io ho anche simpatico Conte, sono un interista. Però onestamente, cioè, si sente parlare esclusivamente di questa persona in maniera eccessiva. Non riesco a trovare altri termini di paragone di uno che, fra l'altro, per ora almeno non è che abbia vinto cose alla Capello, alla Sacchi, alla Mourinho. Un po' di tempo glielo possiamo anche dare, perché comunque quello che ha fatto alla Juventus è stata ed è qualcosa di importante. Si è parlato molto di Conte per l'intera vicenda, troppo. Quindi non è poi così normale che l'allenatore fresco campione d'Italia finisca ai domiciliari calcistici, no? Niente, quindi vuol dire che ha commesso qualcosa, dire che c'è stato un processo e una condanna, quindi lei dice se ne è parlato se ne è parlato troppo, però insomma mi pare una discreta notizia questa. Ieri è uscito dal gabbiotto, è tornato in panchina ed è stato ed è il personaggio del giorno, quella della Conte Cam. Vabbè, lasciamo stare la Conte Cam, dai. Enrico, Pordenone. Sì, buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Ma con alcune rare eccezioni, tutti convocati è una di queste, ritengo che il giornalismo italiano sia uno dei principali colpevoli dei mali del calcio italiano. Mi spiego meglio. La Conte Cam è soltanto l'ultimo dei vari episodi che il giornalismo italiano si è macchiato in questi mesi. Un esempio più specifico, Sky durante le Olimpiadi si è fatta portavoce della riscoperta di altri sport oltre al calcio e dell'importanza di dare spazio a questi. Un minuto dopo la fine delle cerimonie di chiusura di Londra sembravano essersene già dimenticati. Cosa ne pensa? Beh, sa, quello che fa cassetta è il calcio, quello che costa molti soldi è il calcio, e non mi aspettavo niente di diverso. Piuttosto magari nei notiziari di Sky la comparsa di qualche altro sport di tanto in tanto, al di là di qualche commento sul basket, di qualche raro commento sulla pallavolo, eccetera eccetera, c'è. Però sono improntati a ossessivi collegamenti con Milanello, con Trigoria, con Formello, eccetera, eccetera, eccetera. magari qualche così, qualcosa di diverso ce lo si potrebbe anche aspettare. Paolo da Rimini, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Paolo. Io pensavo di parlare di basket cambiando argomento. Fallo. Però Carlo, mi hai punto sul vivo parlando della Roma. Un commento su Totti, non puoi dire che non fa più notizia. Fallo un commento, perché credo che a questo punto lo meriti. Paolo Totti sì, ma si commenta da solo, no? Lo guardi giocare, che commenti vuoi fare su Francesco Totti ad anni 36? Esatto. Sembra più giovane di 5 anni fa. Sì. Comunque niente, sul basket invece io ho visto Cantù nell'ultima di Euroliga con Real Madrid e mi chiedo cosa deve fare il basket per avere più spazio sui media nazionali, perché è stata una partita vincente, bellissima, ed una squadra italiana che ha vinto con merito contro una squadra comunque di ottimo livello europeo. E poi ti rilancio un'altra cosa: Bargnani, l'idea pazza, lo scambio o Minnesota o Lakers, cosa ne pensi? Lo scambio Minnesota o Lakers per Bargnani? Non... O ai Minnesota o ai Lakers in cambio di Gasol e Calderon? Non ne so nulla, ma non sarei così così favorevole per quanto riguarda sì per Bargnani, non sono così convinto che ai Lakers possa servire un giocatore di questo tipo. Poi posso sbagliarmi. Cosa deve fare il basket per avere più spazio sui media? Cercare di lavorare sugli interessi veri della pallacanestro, senza stare a contare i pochi quattrini che comunque derivano dai diritti televisivi. C'è Sport Italia che, per quanto riguarda l'Eurolega, fa un ottimo lavoro, fa quel che può. Per quanto riguarda il campionato italiano, sinceramente sembra di vedere, ma già dalle immagini, delle partite bulgare di 30 anni fa, insomma, non è esattamente il modo migliore per promuoverlo, questo è indubbio. Grazie, ci fermiamo qui, torniamo domani, tutti convocati sempre, ogni giorno, dalle 2 alle 3. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, ciao a tutti. Merry Christmas to all Manchester City fans, and thank you for your support.